Incontri di Gianfranco Fabi. Land, la terra promessa di Bruce Springsteen. Bentornati al nostro incontro della domenica sera, grazie per essere con noi a Walter Lazzari. Buonasera, grazie a voi. Walter Lazzari, docente di intermediari finanziari presso l'Università di Castellanza, ma rettore anche della stessa università. Una terra promessa, abbiamo iniziato con Bruce Springsteen. Bruce Springsteen è molto scelto dai nostri ospiti in queste settimane. Come mai questa passione per la musica americana o una passione per la terra promessa? Ma penso probabilmente sia legato anche all'età, cioè Bruce Springsteen ha fatto un po' da ponte tra la Dutiful Generation e la Baby Boom Generation, che è quella a cui noi apparteniamo. Quindi l'età di mezzo, in pratica. Esatto, diciamo che probabilmente non fa più, non è più la colonna sonora dei tempi attuali, ma è stata la colonna sonora dei miei tempi. Ma resta quindi sempre attuale, resta sempre attuale anche con questa ricerca, con questa certa rabbia in molte canzoni di Bruce Springsteen, ma anche con una ricerca in fondo, con una speranza. Ma non direi rabbia, perché lui, secondo me, anche qua, la Promised Land, dobbiamo costruire qualcosa di nuovo, dobbiamo migliorarci, I do my best, però nel reale, non nell'immaginario come accade oggi con i vari reality show. Sì, infatti dice: non sono un bambino, sono una persona. Sono esatto, qualcuno esatto. Che vuole vivere. Come vive la sua esperienza da rettore, ormai da 3 anni mi sembra, dell'Università Cattaneo? Come vive questa esperienza, che sicuramente è importante, dell'arco appunto di un'esperienza professionale come la sua? Ma è bellissima restare a contatto con i giovani e cercare un po' di interpretare quelli che è l'evoluzione del tempo delle giovani generazioni. Dall'altro lato, come dice un mio collega americano, gestire i professori è un po' come tenere in greggi i gatti, quindi capisce lei. Beh, ognuno ha la sua personalità, indubbiamente, quindi sotto questo profilo. La difficoltà del compito. Forse, ecco, l'Università Cattaneo, spieghiamolo un po' agli ascoltatori che forse ne hanno sentito parlare, ma non sono tenuti a conoscerla perfettamente, è nata nel 1991 per volontà degli imprenditori dell'Unione Industriale di Varese, quindi è una realtà abbastanza piccola nel suo complesso, anche rispetto alle altre università. No, è sicuramente una piccola università privata, molto focalizzata appunto sulle aree che interessano il business, quindi sostanzialmente abbiamo 3 facoltà, ci stiamo innovando anche qui, abbiamo 3 scuole, le facoltà è una cosa del passato, una scuola è quella di economia aziendale, l'altra è quella di ingegneria gestionale e la terza è quella di diritto, di giurisprudenza. Per quanti studenti complessivamente? Poco meno di 2000. 2000 studenti, e quindi è più vicina a un campus all'americana che non a un'università all'italiana, che è un po' un post liceo molto spesso. Assolutamente, italiana. Anche diciamo come struttura disponiamo di un campus con un dorm, con un pensionato all'interno del campus, quindi è proprio una realtà diciamo tipica americana. Quindi è una realtà voluta un po' dagli imprenditori, ma è un'università, mi scusi la domanda, un po' da figli di papà? No, c'è di tutto, ci sono anche dei figli di papà, ma ci sono anche persone normali. Come diceva Woodrow Wilson, l'università deve essere un punto d'incontro e lì c'è un punto d'incontro per tutti i tipi di persone, uomini, donne, sud, nord, figli di papà, persone che vanno a lavorare portando la pizza per pagarsi l'università, e questo è quello che ci vuole. Ecco, un'università quindi aperta anche come possibilità di frequenza, di iscrizione, ci sono probabilmente anche delle facilitazioni per, come dice la Costituzione, i capaci e meritevoli. Ma noi penso che siamo l'unica università italiana che ha un sistema di rette basate non sul reddito ma sul merito, per cui tanto più uno studente performa in maniera efficiente, segue gli studi puntuali, eccetera, tanto più la retta risulta essere contenuta, e a livello di laurea magistrale siamo la prima università in Italia per regolarità del corso degli studi degli studenti. Ecco, come si diventa rettore di un'università? Ovviamente facendo il professore probabilmente, poi si viene scelti all'interno dei professori, magari con un certo arbitrio da parte di chi deve scegliere. No, nelle università pubbliche in realtà c'è un sistema anche di elezione, invece in quelle private, come nella nostra, c'è un azionista o comunque un gruppo di riferimento, il consiglio di amministrazione a cui rendere conto, e il consiglio di amministrazione sceglie. Quanto dura una carica di rettore? 2 anni. rinnovabili. Rinnovabili, ma diciamo che i cicli tendono a esaurirsi. Questi sono impegni molto invasivi, per cui è bene che diciamo dopo uno o due mandati uno... Quindi lei torna volentieri a fare docente di intermediari finanziari. Molto, ma non ho mai smesso perché voglio continuare a tenere il contatto con l'aula, sapendo che è un lavoro che va a termine, è bene non perdere il contatto però, ecco, con l'aula. Intermediari finanziari è una materia molto calda in questo periodo, una materia in cui gli intermediari finanziari sono spesso messi sotto accusa, la finanza è in fondo grande colpevole della crisi attuale, non si sente un po' partecipe o complice di questa crisi? Ma spero di no, ma direi che la crisi, non, diciamo, alcuni comportamenti sono stati molto antipatici, ma gli squilibri erano molto più fondamentali che non il comportamento antipatico che può aver avuto una banca piuttosto che un'altra. Cioè, quindi... la finanza può aver amplificato degli squilibri economici e non viceversa, e non l'economia che esatto, ha... la finanza ha dato, diciamo, la stura dei comportamenti che veramente danno fastidio, però diciamo c'è uno squilibrio fondamentale di eccesso di credito che è stato fatto e che quindi ha comportato un sistema che non era più sostenibile. Ecco, magari torniamo più avanti nella seconda parte anche su questi temi finanziari, vorrei però completare un po' anche il discorso sull'università. Lei ha avuto anche esperienze di studio e di docenza, mi pare, all'estero, negli Stati Uniti. Sì, io ho fatto tanti anni fa, feci il PhD all'estero, partì senza sapere l'inglese, verso la Promised Land, come diceva Bruce Springsteen, per questo che sono molto legato, sono riuscito a fare il dottorato da niente, è quello, diciamo, che mi ha cambiato in parte la vita. Quindi negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti. Ecco, è molto diversa l'università americana rispetto a quella italiana. Molto spesso si tende a dipingere l'università americana come appunto la terra promessa, quella dove si studia, i meritevoli hanno grandi capacità, c'è una grande libertà, c'è un grande impegno, c'è in fondo anche la capacità dell'università di preparare delle persone che sappiano entrare immediatamente nel mondo del lavoro. È vero o è una favola, è una leggenda italiana? Beh, in parte è sicuramente vero, ma questo, diciamo, è un concetto più generale. Da noi la nostra cultura è stata una cultura molto basata sull'erudizione, cioè proprio l'aspetto culturale in senso stretto. Sull'apprendimento. Sì, proprio apprendimento proprio dei contenuti. In America invece il contenuto è sempre posto al servizio di una funzione, di risolvere un problema. Quindi là poi curano anche molto di più l'indole della persona, perché la cultura, io posso avere un erudito, ma se l'indole non è quella corretta non vado da nessuna parte. In America invece si cura sia la parte, diciamo, culturale, dove a certi livelli si arriva veramente al top, ma si cura anche, diciamo, l'aspetto di educazione della persona, della sua indole a essere proattiva e quant'altro, cosa che in Italia si cura molto meno. Ecco, quindi una capacità di riconoscere anche i meriti della persona, la sua capacità, la sua passione, che si estende poi dall'università anche alla società, anche al mondo del lavoro, anche al sistema economico, forse su questo punto... Ma parte addirittura, secondo me, nelle scuole elementari. Là danno il certificate best student, cioè, quindi uno è proprio spronato a essere il migliore, a fare bene. Qui invece mi ricordo quando io ero a scuola, se tu andavi bene eri bastonato, eri secchione, eri il primo della classe che di solito veniva visto con molta invidia, ma appunto magari non molto ben visto da parte degli altri, perché faceva mettere in risalto un po' le difficoltà altrui. E quindi una sana concorrenza, esatto, è quello, esatto, che ci vuole. Esatto. Ecco, ma questa c'è all'interno di una università come quella di Castellanza, all'interno degli studenti c'è questa sana concorrenza. No, assolutamente sì, noi fra l'altro siamo un'università molto internazionale, abbiamo quasi la metà dei nostri studenti va all'estero, potrebbe andarci tutte se volessero, alcuni non hanno ancora percepito l'importanza dell'esperienza estera, per cui noi siamo molto internazionali, ma direi che in generale c'è stata una convergenza molto forte a livello di sistemi universitari. Quando io andai in America 30 anni fa c'era una differenza abissale tra l'Italia e gli Stati Uniti, almeno nel mio campo, adesso no. Quindi l'Italia si è avvicinata agli Stati Uniti o gli Stati Uniti sono avvicinati all'Italia? Cioè, no, diciamo che c'è una convergenza a livello mondiale. Ecco, la convergenza a livello mondiale, c'è una convergenza dei pregi, perché convergere sui difetti... E quando c'è la convergenza temo che si converga in tutto. In tutto, quindi questo sistema globale è un sistema globale in cui ovviamente c'è una contaminazione, nel positivo e nel negativo. Quando si viaggiava 20 anni fa... si vedevano mondi completamente diversi. Se lei viaggia adesso, che vada a Mosca, che vada a San Francisco, che vada a Milano, cioè qualche diversità c'è, ma forse parte la Corea del Nord e l'Iran. Certo. Si trova sempre il McDonald's in cui rifugiarsi, si trova sempre, esatto. Solo deve essere tranquillo, esatto. Almeno sa che cosa prende. Esatto. Incontri. ancora con Bruce Springsteen, con La Terra Promessa. Riprendiamo il nostro incontro con Walter Razza, il rettore dell'Università di Castellanza, l'Università Carlo Cattaneo. Abbiamo parlato nella prima parte appunto di questa università nata nel 1991 per volontà degli imprenditori varesini, che si è sviluppata nel corso degli anni, ha ora 2000 studenti, ha tre corsi di laurea, tre scuole, mi spiegava il rettore, economia, giurisprudenza, ingegneria gestionale, che preparano appunto i giovani a un ingresso nel mondo del lavoro. Rettore Lazzari, un ingresso nel mondo del lavoro, l'esperienza dimostra che questa università serve, i giovani in che percentuale trovano lavoro nel giro di 10 giorni? Nel giro di 10 giorni nessuno. Non lo rileviamo, quindi non glielo so dire. No, penso che ci sia qualcuno che lo trova addirittura con un tempo negativo, quindi prima di laurearsi, specialmente i nostri ingegneri sono molto molto appetiti. No, direi che la percentuale, diciamo, è oltre il 90% in breve tempo. L'unica eccezione è un po' giurisprudenza, dove la percentuale scende a sopra il 70%, che però è comunque doppia rispetto alla media nazionale, dove i laureati in giurisprudenza oggi, come si sa, sono forse troppi. Certo, ma forse voi preparate più che gli avvocati dei giuristi d'impresa, questa è l'ambizione noi prepariamo persone di giurisprudenza che conoscono molto bene il mondo degli affari e quindi possono poi impiegarsi sia all'interno di studi professionali, fare la tradizionale carriera di avvocato, oppure entrare nelle imprese e svolgere attività di giurista d'impresa. Ecco, l'università è intitolata Carlo Cattaneo. Nella spiegazione, nella presentazione, si ricorda appunto come Cattaneo fu il primo ad accostare, ricordiamo a metà dell'Ottocento, tre elementi della scienza economica classica: la materia prima, il capitale e il lavoro, e quindi l'intelligenza e la volontà degli uomini, riconoscendo la centralità dell'imprenditore all'interno del sistema economico, imprenditore come elemento fondamentale, soprattutto in una realtà come quella italiana fondata sulle piccole e medie imprese. Beh, l'imprenditorialità è assolutamente fondamentale, perché deve esserci qualcuno che sia disposto a prendersi dei rischi, qualcuno che sia disposto a dare un impegno totale. Chi fa l'imprenditore non lascia mai il lavoro alle 5, ma se lo porta a casa, se lo porta nel weekend, se lo porta costantemente. Occorre essere persone particolari. Ecco, lei da 3 anni è rettore appunto di questa università. Quali sono le novità in questi ultimi anni? Che cosa avete aggiunto? Che cosa avete perfezionato? Che cosa avete messo a punto nella vostra realtà, che ovviamente, come tutte le realtà, deve essere dinamica? Beh, assolutamente, bisogna cercare di intercettare quelli che sono anche le tendenze e le esigenze del mercato del lavoro e dei giovani. Ma noi in questi ultimi anni abbiamo, per esempio, duplicato il corso di laurea e oggi abbiamo sia la versione italiana che la versione inglese, quindi in economia. Chi viene da noi può seguire tutto il percorso, sia di laurea triennale che di laurea biennale, in lingua inglese. E io non mi stanco di dire ai ragazzi di oggi che l'inglese è assolutamente fondamentale. È quello che fu per la generazione mia, o addirittura quella prima, l'italiano. Certo. Si parlava il dialetto e tutti passavano a parlare l'italiano. Adesso, diciamo, fra 50 anni, io non so come sarà il mondo, ma l'inglese sarà assolutamente fondamentale. A livello di contenuti, l'anno scorso abbiamo lanciato, e penso sia l'unico caso in Italia, un percorso di specializzazione nella laurea triennale in economia e management dello sport. Questo è un settore ricco, importante, dove c'è un deficit di managerialità pesante, e conseguentemente abbiamo cercato, attraverso questa iniziativa, di cercare di educare anche questo tipo di settore alla managerialità. Certo, le società sportive sono società come le altre, qualcuna addirittura quotata in borsa, con risultati sia borsistici sia sportivi, tutti da valutare, poi ognuno secondo la propria passione. Sono tendenzialmente diversi, probabilmente anche correlati negativamente. Certo. Magari qualche società va male del campionato e rischia di fare qualche speculazione in borsa. Questo ci porta magari a parlare ancora della finanza. Lei è professore di intermediari finanziari. Perché è venuta questa passione della finanza? Non ha pensato di insegnare qualcos'altro, pur ammesso di fare il docente, o magari non ha pensato di fare il pompiere oppure no, l'astronauta? Sono le persone. Io ho avuto una persona, Claudio De Mattè, diciamo che quando un ragazzo ha 20 anni cerca una guida, cerca un role model, e niente. Cioè, Mattè è stato uno dei grandi alla Bocconi, che ha portato avanti, che ha creato la scuola di amministrazione aziendale. Sì, alla Bocconi. La scuola di amministrazione aziendale, esatto. Sì. Poi ha avuto anche morto prematuramente, purtroppo. Purtroppo, sì. Ricorre il decennale in questi. Ha fatto 10 anni proprio dalla sua scomparsa la settimana scorsa. Sì, è stata una grande personalità nel mondo accademico, ma anche soprattutto nel mondo economico complessivamente. Ecco, abbiamo citato la Bocconi. C'è un po' l'ambizione di essere una piccola Bocconi, la vostra università? No, beh, le dimensioni sono molto diverse. diverse. Diciamo che offriamo due cose diverse. Se uno cerca una grande università, 20.000, 15.000 persone, eccetera, cerca il Lab Bocconi. Se uno cerca invece un contesto più da boutique, eccetera, quindi sono proprio due comparti diversi. In cui ci può essere però una sana concorrenza, come gli avevo detto prima, la concorrenza è un po' l'anima del... Poi noi siamo più diversificati perché abbiamo anche ingegneria. Avete che ingegneria. Fate che concorrenza al Politecnico, oltre che al Lab Bocconi. Quindi... quella è dura anche perché loro hanno le tasse universitarie statali. Ecco, università privata, un'università libera, un'università è difficile essere università privata nella realtà italiana, oppure comunque è un'università parificata dal punto di vista assolutamente, in una realtà in cui il titolo di studio ha ancora un valore legale. Su questo ci può essere una discussione sulla validità del valore legale del titolo di studio, comunque è un titolo di studio come tutti gli altri. Assolutamente, ma io devo dire che il valore legale, io ho preso il titolo di studio tanti anni fa, non penso di averlo mai usato una volta, quindi probabilmente c'è, ma per qualcuno c'è, forse per i concorsi pubblici la sua effettività, la sua razionalità, però si discute appunto sul fatto che per rendere più competitive le università bisognerebbe abolire questo valore legale. E dice di fatto è già abolito, di fatto soprattutto nel mondo, nel sistema economico conta di più il merito, conta di più il fatto di essere di una certa università che non il timbro. Quello che dico sempre ai miei ragazzi: non è più il tempo di avere un entitlement, cioè non è più il distintivo sono laureato. 20 anni fa si dicevi se sei laureato forse avevi diritto a qualche cosa, oggi si dice se sei laureato non hai diritto a niente. Devi provare di sapere, cioè di avere tutto quello che c'è dietro una laurea, quindi le competenze, le capacità, eccetera, quello che gli inglesi chiamano empowerment, di essere capace. Allora se riesci a dimostrare che la tua laurea significa capacità, allora sì che hai un lasciapassare per realizzare grandi cose. Ecco, come vede i giovani di oggi? Come sono cambiati negli ultimi anni, da quando lei ha iniziato a fare il docente? Come li ha visti cambiare, anche come atteggiamento verso il mondo esterno, verso il mondo del lavoro? Beh, sono sicuramente molto più speculativi di quanto eravamo noi. Noi volevamo studiare proprio per il gusto della discussione, del sapere, eccetera. Loro invece vanno a calibrare molto attentamente le loro energie. Secondo me forse la differenza più grande è che io sono cresciuto in un'età in cui si sparava per strada, gli anni 70, però i giovani pensavamo di avere davanti spazi infiniti, comunque. Certo. Secondo me i giovani di oggi invece non si spara per strada, quindi il contesto è sicuramente migliore, però secondo me avvertono una difficoltà a trovare lo spazio, il loro spazio. E noi adulti non facciamo un buon lavoro continuando a dire che lasciamo loro un mondo devastato, brutto. Indebitato anche. Ecco, perché gli diamo un mare di scuse che non vanno date. Non è che oggi ci sono meno opportunità di quante ce ne fossero negli anni 70. Sono diverse. Negli anni 70 lei aveva un'opportunità sotto casa. Certo. Adesso sotto casa forse è più difficile trovarla, però ha l'opportunità a Londra, a New York. Io se dovevo andare a fare un colloquio di lavoro a Londra negli anni 80 dovevo spendere 1 milione di lire, che allora erano veramente tanti soldi, solo per il volo aereo. Adesso spende più per i taxi, andare all'aeroporto. Perfetto. Per i taxi, e quindi posso andare a Londra a fare tutti i colloqui di lavoro che voglio. Ecco, in questa prospettiva però certamente c'è questa apertura, ci sono molti giovani che vanno all'estero, però in gran parte non tornano in Italia. Come farli tornare? Beh, c'è tanta gente che è tornata, nel mio caso io tornai, ma ce ne sono stati anche tanti altri. Noi dobbiamo abituarci, il nostro problema non è tanto gli studenti che perdiamo all'estero, perché secondo me li perdono anche la Germania, la Francia, eccetera, è che noi facciamo molta più fatica a portare qui dei talenti. Cioè un talento, diciamo, inglese, un talento norvegese, eccetera, difficilmente viene a lavorare in Italia. È lì che dobbiamo cambiare, noi dobbiamo aprirci al mondo, perché comunque la circolazione internazionale sarà sempre più grande, però dobbiamo essere capaci anche di attrarre. Cioè sì, l'Italia è molto attraente a livello appunto di bellezza, però per viverci, non per lavorarci, è un po' un problema lavorare in Italia. Forse un compito dell'università dovrebbe essere quello di semplificare un po' le cose. Forse ci sono troppe regole non scritte. Ecco, anche su questo profilo, troppe regole non scritte e anche forse che troppe regole scritte, perché in Italia tutto quello che non è esplicitamente previsto o permesso è vietato. Ecco, quindi anche anche sotto questo profilo, tornando rapidamente al mondo della finanza, anche il mondo della finanza deve un po' cambiare, però deve diventare un po' più trasparente, un po' più capace di assecondare l'economia reale. Si è un po' distaccata comunque la finanza, lei da professore di intermediari finanziari lo può riconoscere? Beh, ha creato un'infrastruttura molto molto grande, forse eccessiva per quelle che sono le esigenze dell'economia reale, questo è indubbio, però la finanza comunque resta sempre al servizio dell'economia reale. Quello che guida è l'economia reale, e c'è una famosa personalità americana che dice, per risolvere la crisi, dice, il problema vero è che la Federal Reserve purtroppo non può stampare bambini, perché il primo fattore di crescita sono i bambini, è il fattore umano. Esatto. E l'Italia sotto questo profilo purtroppo siamo messi ancora peggio degli Stati Uniti. Cioè il fattore demografico è certamente un fattore che forse viene spesso sottovalutato, però anche perché si sviluppa un po' lentamente ma inesorabilmente, e fra l'altro è il più prevedibile. Però gli economisti, noi economisti, non abbiamo mai avuto un corso di demografia. Io, nella mia preparazione, è palesemente un buco. È un altro segmento, e secondo me io spero che ci sia una convergenza, perché nel lungo termine la crescita dipende in buona parte, certo, dal capitale umano, sia come persone sia come cultura delle persone. Bisogna dare ai giovani, anche quelli che frequentano l'università, un po' di speranza positiva verso il futuro, in modo che non cerchino solo un lavoro ma cerchino anche di mettere su famiglia, di fare figli. Bisogna fargli capire che c'è il loro spazio, e in questo spazio devono crescere. Ecco, si sente un po' appunto di questa responsabilità come rettore, come professore a contatto con gli studenti, di dare un messaggio positivo. C'è una possibilità di crescita per questo paese? Assolutamente sì. Come lo vede? Lo vede il futuro in cui si possa e si debba ancora andare avanti, e si possa ancora, ci sia ancora spazio appunto per realtà che pensano positivamente? Ma noi siamo un po' il paese dell'ultimo minuto, dell'ultima difficoltà. In fondo abbiamo sempre lo scatto di reni che ci porta fuori dai problemi. Quindi ecco, spero... però non bisogna sperarci troppo, bisogna comunque lavorare. Assolutamente. Lavorare attorno a questo. Grazie. Grazie a Walter Lazzari, rettore dell'Università di Castellanza, di essere stato con noi questa sera. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia e a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, e per quel che resta ancora, buona domenica.